Una curiosità alla quale non ho trovato risposta per tanti anni riguardava il sapere come e cosa facessero i primi cristiani quando si radunavano, questo perché ho la nausea nel vedere certe riunioni cattoliche e non dove vige una barbosa solennità religiosa accompagnata da una liturgia millenaria, fissa e uomini e donne si inchinano davanti a chi indossa il crocefisso, con sacralità artificiosa. Non sono convinto che i primi cristiani si comportassero così. Sia perché il concetto di autorità, come lo presenta il cattolicesimo, non esisteva, sia perché il crocefisso e il dovuto inchino erano impensabili, sia perché le mani giunte, il segno della croce, la preghiera a Maria Vergine, non erano ancora stati inventati. Come se io pensassi che gli apostoli Pietro e Paolo, nei loro spostamenti, usassero la macchina. Sarebbe impensabile, come è incredibile, assurdo, impossibile, inammissibile. Per usare solo alcuni aggettivi, che al tempo dei primi cristiani esistesse tutta quella forma riverenziale e di adorazione rivolta all'uomo. Proprio impossibile. Lo stesso apostolo Pietro, definito dal cattolicesimo il primo papa, allo straniero, centurione romano, che si era inchinato davanti a lui, disse: "Alzati, sono anch'io un uomo." Atti 10.26. Altro che offrire la mano perché sia baciata. Che dire poi dell'apostolo Giovanni quando si inchinò davanti all'angelo, il quale gli rispose: "Guardati dal farlo, io sono un conservo tuo e dei tuoi fratelli che hanno la testimonianza di Gesù." Adora Dio. App 19.10. Questi episodi mettono in evidenza che nella cultura e nella coscienza dei primi cristiani non esisteva assolutamente l'idea che un uomo o donna potessero essere oggetto di venerazione da parte di altri esseri umani, inclinazione questa molto spontanea nella natura adamitica. E poiché non mi lasciava pace la curiosità circa il comportamento dei primi cristiani, sia a livello personale sia quando si radunavano assieme, ho continuato a cercare qualche documento in merito e, con sorpresa, ne ho trovati due contemporanei. Agli Apostoli, uno del III secolo e altri due ancora dei nostri tempi, con il loro relativo commento, molto utile e attuale per noi. Le prime due attestazioni relative al comportamento dei cristiani della nascente Chiesa di Cristo, durante le riunioni, le ho ricavate meno con sorpresa, meno dalla stessa Bibbia, e, precisamente, nella lettera di Paolo indirizzata agli abitanti della città di Corinto. Colgo l'occasione per affermare che questi credenti amavano Dio, volevano essere spirituali, possedevano molti doni spirituali, ma ciò non era loro sufficiente per evitare tanti errori, mettendo in evidenza che un cuore ardente senza conoscenza e buone intenzioni non è sufficiente per onorare Dio. Proprio perché le sole buone intenzioni non sono sufficienti ad onorare Dio, Paolo si trova costretto a spiegare ai credenti il giusto comportamento da tenersi quando si sarebbero trovati per leggere la parte. Se osserviamo attentamente e prendiamo gli insegnamenti di Paolo come direttive per i nostri incontri, molto probabilmente ci renderemo conto che vi sono cose da doversi cambiare. Se poi i nostri incontri dovessero modificarsi, nulla di umiliante, anche perché per migliorare è inevitabile mutare e ciò che è fermo a fermentare. Che conviene dunque fare, fratelli? Quando vi riunite, avendo ciascuno di voi chi un salmo, chi un insegnamento, chi parole in altra lingua, chi una rivelazione, chi un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Se uno parla in altra lingua, si faccia questo da due o tre al più, e l'un dopo l'altro, e uno interpreti. Ma se non vi è chi interpreti, si taccia nella chiesa chi parla in altra lingua, ma parli a se stesso e a Dio. Parlino due o tre profeti e gli altri giudichino, ma se è ribellata qualcosa ad uno che è seduto, si taccia il precedente. Tutti infatti ad uno potete profetizzare affinché tutti imparino e tutti siano incoraggiati. Gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti perché Dio non è un Dio di confusione ma di pace, che così si fa in tutte le chiese dei santi. Tacciano le vostre donne nelle chiese, perché non è loro permesso di parlare, ma devono essere sottomesse, come dice anche la legge. E se vogliono imparare qualche cosa, interroghino i propri mariti a casa, perché è vergognoso per le donne parlare in chiesa. E la parola di Dio proceduta da voi, o è essa pervenuta a voi soli? Se uno si stima essere profeta o spirituale, riconosca che le cose che vi scrivo sono comandamenti del Signore. E se uno lo vuole ignorare, lo ignori. Perciò, fratelli miei, cercate ardentemente il profetizzare e non impedite di parlare in lingue, ma ogni cosa sia fatta con decoro e con ordine. 1 Cor 14:2-6:40. Incontrarsi sia per ragioni civili sia religiose è una normale attività dell'uomo, ma se i credenti vogliono onorare il Dio Trino, è opportuno che inquadrino le loro riunioni nelle caratteristiche proprie della Chiesa del primo secolo, la quale deve essere un punto di riferimento. Non dobbiamo certamente disprezzare tutto ciò che è nuovo e serve per migliorare il nostro culto, ma quando l'insieme delle manifestazioni collettive della nostra fede non rispecchiassero i principi cristiani, occorre cambiare. La prima cosa che si coglie in questo scritto dell'Apostolo Paolo è la partecipazione di tutti i credenti quando si radunano. Le espressioni "ciascuno di voi" e "tutti potete profetare" non lasciano dubbi. Il concerto di uno che governi o di un ministro che decida tutto non è assolutamente contemplato. Paolo dà l'ordine ai credenti che quando si trovavano tutti dovevano mettere al servizio degli altri ciò che avevano ricevuto da parte di Dio precedentemente. Questo aspetto ribalta completamente l'esperienza del cattolico e di certe chiese protestanti dove il credente si siede e ascolta passivamente, osservando meno caso mai compiaciuto, meno lo svolgimento del culto. Se i peccati non sono solo quelli attivi, ma anche quelli passivi, allora possiamo dire che nelle odierne riunioni dei così chiamati cristiani se ne commettono molti. Da quello che ha detto l'Apostolo Paolo, il concetto della predicazione o del predicatore non esisteva, perché se tutti potevano avere una qualche rivelazione da partecipare, se chiunque poteva avere un insegnamento, significa che le riunioni dovevano essere ben movimentate e da tutti partecipate con passione. E così, nella tua assemblea o chiesa, perché oggi le riunioni dei cristiani sono così diverse? Non ho una spiegazione, ma ho una supposizione a mio avviso abbastanza vicina alla realtà storica. Una chiesa che veda tutti impegnati i propri fedeli non è cosa da poco. Se io sono chiamato a dare un insegnamento, se devo partecipare a una interpretazione della Scrittura ricevuta da Dio, occorrerà che abbia un cammino cristiano molto intimo con Gesù Cristo. Occorrerà che del continuo mediti sulla parola di Dio. Sarà necessario che io sia puro e giusto per comprendere la pura e giusta parola di Dio. Questo è un impegno non da poco, e poiché è molto più facile vivere a proprio piacimento senza impegnarsi nell'opera di Dio, e così conducendosi, di conseguenza arrivare alla riunione vuoti e impreparati, anzi bisognosi di ricevere, anziché dare, è molto più comodo presenziare alle riunioni solo per ascoltare e lasciar fare a chi ha un cammino santo e giusto. Va da sé che sono pochi coloro che accettano l'invito di Gesù di lasciare ogni cosa, di mettere al secondo posto tutte le cose terrene rispetto a quelle celesti. E così le scarse persone rimanenti impegnate nell'opera di Dio diventano automaticamente i conduttori degli altri credenti, che vivono passivamente. Succede che i conduttori sono contenti del loro ruolo di condurre e istruire, mentre i credenti passivi sono contenti di essere guidati e istruiti. Perché dover cambiare? Perché piantare grane? Lasciamo tutto com'è e non ne parliamo più, non è vero? Paolo ha detto parlino due o tre profeti e gli altri giudichino, non ha detto parli uno e gli altri ascoltino e tacciano. Nelle riunioni dei cristiani non vi deve essere il super presidente, colui che parla e al quale nessuno deve replicare, ma tutti sono chiamati a esaminare ciò che è esposto. Tutti. Perciò è più che giusto che chi parla sia esaminato con domande di chiarimento, ovviamente rivolte in privato e non in pubblico, per mantenere l'ordine. In merito ai profeti che possono parlare, Tale termine non si riferisce a uomini al pari di Giovanni il Battista o Elia e Eliseo, ma semplicemente a persone che hanno ricevuto da Dio un qualche insegnamento o che hanno il compito particolare di insegnare. E se non è così, mi direte, è vero, niente di più facile che illudersi di parlare da parte di Dio. Per questo chi espone deve essere ascoltato attentamente e valutato. Nelle riunioni dei primi cristiani si parlava in lingue e, per quanto ho compreso, non credo che tale dono sia oggi estinto. Ma la sua manifestazione deve essere proibita se non vi sia chi interpreti, anche perché uno potrebbe dire meno come è già successo meno delle bestemmie, senza saperlo. Del resto, se lo scopo di un credente è di edificare la Chiesa, farà fatica a esercitare questo dono in pubblico, soprattutto se crea divisioni e problemi. In merito poi alle donne che devono tacere, nell'ambito protestante esso è svariatamente interpretato. Ma se consideriamo questo ordine nel suo insieme, cioè nel contesto del discorso di Paolo, prendiamo atto che devono tacere coloro che parlano in lingue, e non sono tradotti come deve tacere colui che parla, se ad un ascoltatore è data una rivelazione. Perciò è molto azzardato sostenere che la donna debba tacere nel senso assoluto, ossia che non può pregare, anche perché, in merito a questo, Paolo dice che, se la donna prega, deve avere un velo in testa, come segno di autorità, e non di umiliazione. Però, dice Paolo, se la donna non vuole mettersi un velo, si dovrebbe tagliare i capelli, o rasare. Con le pettinature di molte donne d'oggi, c'era, è da chiedersi se devono mettersi il velo. Sempre in merito al tacere della donna, è significativo il fatto che Paolo ordini loro di chiedere ai mariti ciò che a loro interessa, perché spiega molto bene cosa intendesse. Paolo, con tale ordine, le donne non devono chiacchierare durante le riunioni, non ha detto di non pregare. E sul chiacchierare delle donne credo non vi siano idee contrarie, anche perché l'ordine onora una riunione solenne. Se poi una donna non ha marito, non è invalida spiritualmente. Perché è sufficiente che chieda ad altri uomini ciò che vuole sapere, questo ovviamente dopo la riunione. Altri eventuali interrogativi in merito al tacere delle donne nelle riunioni sarebbero dovuti alla mancata accettazione di questa semplice spiegazione. Cosa può contenere di così illogico? Non c'è. Forse, decoro e ordine. Queste erano le forme esteriori delle riunioni dei primi cristiani, il di più. Non deve invalidare tali comportamenti. Leggiamo nella lettera ai Corinzi al capitolo 11. Ora in quello che vi ordino io non vi lodo, perché vi riunite non per il meglio, ma per il peggio. Prima di tutto, perché sento dire che quando vi riunite in assemblea vi sono fra voi delle divisioni. E in parte lo credo. È necessario infatti che vi siano anche delle fazioni tra voi, affinché siano manifestati tra voi quelli che sono approvati. Quando dunque vi riunite insieme, quello che fate non è mangiare la cena del Signore, perché nel mangiare ciascuno prende prima la propria cena. E uno ha fame e l'altro è ubriaco. Ora non avete delle case per mangiare e bere? O disprezzate la Chiesa di Dio e fate vergognare quelli che non hanno nulla? Che vi dirò? Vi loderò? In questo non vi lodo. Poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Prendete, mangiate. Questo è il mio corpo che è spezzato per voi. Fate questo in memoria di me». Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me». Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore, finché egli venga. Perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi ne mangia e beve indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione fra voi vi sono molti infermi e malati, e molti muoiono. perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati. Ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati col mondo. Pertanto, fratelli miei, riunendovi per mangiare aspettatevi gli uni gli altri. E se qualcuno ha fame, mangi a casa, affinché non vi riuniate per attirarvi un giudizio. Or quanto alle altre cose le sistemerò quando verrò. 1 Co. 11.1734. Chi legge spesso la Bibbia forse non troverà in questo testo nulla di particolare, ma ci sono vari insegnamenti che dobbiamo prendere sul serio e che dobbiamo attualizzare nelle nostre riunioni se vogliamo onorare gli ordini di Gesù. Infatti, oggi, come del resto è sempre stato, il vero problema della maggioranza delle persone consiste nel non ritenere la parola di Dio vincolante per il comportamento umano, mentre l'Apostolo Paolo disse: «Siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente». Se si è trasformati, non si è più quelli di prima. Innanzitutto, dalla lettura del rimprovero di Paolo, è evidente che non esistesse assolutamente una liturgia fissa, né una presidenza umana prestabilita come sacerdote nella religione cattolica e in certe comunità protestanti. I primi cristiani ebrei, avendo preso alla lettera gli insegnamenti di Gesù, si trovavano verso sera per cenare e mentre mangiavano prendevano il pane e il vino, in ricordo della morte di Gesù. Niente di pomposo, nessuna musica di sottofondo. L'errore di questi neocredenti era nell'aver sottovalutato l'ordine di Gesù, nel non averlo ritenuto serio, nel non mantenere alcun ritegno e ordine, perciò mangiavano e bevevano a più non posso. Per questo prendevano la cena del Signore indegnamente. Purtroppo questo indegnamente è stato compreso male e, di conseguenza, i più lo pensano riferito alla posizione dell'uomo davanti a Dio. Se fosse così, nessuno, ma proprio nessuno, potrebbe essere degno di ricordare la morte di Cristo mediante il pane e il vino, perché tutti siamo mancanti in mille modi e mille maniere. E indegno di prendere il pane e il vino in ricordo della morte di Gesù, colui che compie questo gesto, senza pensare a cosa sta facendo, e senza riconoscere a tale gesto il proprio intrinseco valore spirituale. Così è proprio fuori luogo astenersi dal prendere il pane e il vino, solo perché poco prima si è litigato con il proprio coniuge, o perché sta scritto nella Bibbia: se tu dunque stai per presentare la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi torna e presenta la tua offerta. MT 5.2.3.24. Questo discorso di Gesù è riferito a coloro che vivevano sotto all'antico patto, anche perché Gesù, con tutti i nemici che aveva, non avrebbe mai potuto pregare suo padre, avrebbe dovuto sempre sentirsi in colpa, perché numerosi erano i fratelli che l'avevano con lui. Avere dei nemici non è un sintomo di mancanza d'amore, perché i cristiani maturi hanno imparato, e spesso a loro spese, a non ridurre i loro orizzonti morali a risultati immediati, ma prendono le loro decisioni etiche, a partire da una prospettiva biblica ed eterna. Il detto «il carattere di un uomo non si conosce dagli amici ma dai nemici» ha un insegnamento più profondo di quello che si coglie a prima vista. Un tempo soffrivo a causa di certi dissensi con alcune persone, poi, riflettendo su questo aspetto, ho raggiunto la convinzione che sia un onore non essere come loro. Se non riteniamo un onore avere per nemico un maldicente, un avaro, un adultero, un malizioso, credo che abbiamo una idea sbagliata dell'onore. Perciò andare d'accordo non è sempre una virtù, è un fatto neutro, amorale. Dipende da come e perché. Anche i costruttori della Torre di Babele erano tutti d'accordo, anche Pilato e Nerone erano d'accordo contro Gesù, ma non erano in accordo con la volontà di Dio. Dal discorso di Paolo è evidente che non tutti possono partecipare alla cena del Signore perché, oltre a non essere convenevole, ne possono subire la condanna da parte di Dio mediante una malattia o addirittura la morte. Perciò occorre tenere presente che si può essere battezzati, si può appartenere a una religione con caratteristiche cristiane, ma se colui che vi partecipa non si attiene al principio che Gesù è morto per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più d'ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro, 2 Co. 5.15, è certo di entrare sotto al giudizio di Dio. Per gli increduli un giudizio di condanna, per i figli di Dio un giudizio di correzione, per non essere, come dice Paolo, condannati con il mondo. Grande è il privilegio di colui che prende la cena del Signore, ma grande è altresì la responsabilità. Eppure, tra tutti i comandamenti sociali di Gesù, la cena del Signore è la più osservata, perché ogni domenica cattolici, protestanti, ortodossi la celebrano. Il che vuol dire 52 volte all'anno, 520 volte in 10 anni e più di 1500 volte in 30 anni. Non è il calcolo di un pignolo, ma per far notare che, per quanto siamo desiderosi di fare la volontà di Dio con tutto il nostro cuore, sia così tanto facile che la cena del Signore possa trasformarsi in una forma religiosa, senza più alcun significato. Qualsiasi usanza, anche la migliore, ripetuta metodicamente, è in grado di svalutare il suo significato originale. A proposito, penso a quell'uomo il cui vestito ne rivelava lo stato di miseria, il quale vendeva su di una strada un certo articolo da 10 euro per guadagnarsi da vivere. Un giorno passò un uomo con un abbigliamento molto elegante e, mosso da compassione, gli diede 50 euro senza ritirare l'articolo. Il cuore di quest'uomo andò alle stelle, pieno di riconoscenza. Il giorno dopo, quest'uomo vestito elegantemente fece la stessa cosa e la gratitudine del mendicante era infinita. Così andò avanti per molto tempo. Venne il giorno che, nel ricevere i 50 euro, il mendicante replicò al suo benefattore: «Mi scusi, sa, ma il mio articolo è aumentato. Possiamo sorridere benevolmente a questo episodio, ma quando sono passati 10, 20, 30, 40 anni dal giorno in cui si è diventati figli di Dio, che si sono ricevute benedizioni eterne e incalcolabili, si nutre la stessa riconoscenza di allora? O la cena del Signore per i protestanti si è trasformata in una messa protestante? Abbiamo noi oggi la consapevolezza giornaliera che Cristo ci ha riscattati perché vivessimo per Lui? Abbiamo la consapevolezza d'ogni istante che tutto vita, beni materiali, affetti familiari appartiene a Gesù Cristo? Se è così, anche la cena del Signore sarà celebrata come si conviene e la presidenza dello Spirito Santo sarà totale. Un terzo scritto che ho trovato in merito a come si comportavano i cristiani nelle loro riunioni è di Tertulliano e reca il titolo di Apologeticum, che vuol dire ragionamenti in difesa della fede cristiana. Punto virgolette, è un'opera esplicitamente diretta dei magistrati e dove si parla quindi più di diritto o giustizia umana che di teologia, ma vi sono indicazioni importanti riguardo a come e cosa facessero i cristiani del III secolo quando si incontravano. Per non appesantire la lettura, prenderemo in esame di volta in volta solo alcuni brani. È ormai tempo che io stesso esponga le attività della fazione cristiana, in modo che, dopo aver dimostrato che non sono perniciose, vi proverò che sono buone, anche se rivelerò così la verità. Noi formiamo un corpo per la comune conoscenza di una religione, per l'unità di... Noi ci riuniamo in assemblea ed in congregazione per assediare Dio con le preghiere, quasi battaglione serrato. Questa violenza piace a Dio. Preghiamo anche per gli imperatori, per i loro ministri e per le potenze, per la prosperità del mondo, per la pace universale, per l'aggiornamento della fine del mondo. Tertulliano inizia col dire che i primi cristiani formavano un tutt'uno, cioè un corpo, per tre ragioni. Uno, perché professavano una sola religione, cioè una sola fede. Due, perché erano sottoposti a un'unica disciplina, uguale per tutti. Tre, perché erano accomunati da un'unica speranza, cioè una sola attesa futura. Quindi a motivare il legame fra i primi cristiani non era l'appartenenza ad una corrente religiosa, ma l'osservanza dei principi cristiani. Questo, trasportato al giorno d'oggi, significa che non è sufficiente professare d'essere cattolici o protestanti quando poi si fa quello che si vuole. ma occorre vivere concretamente e costantemente ciò che professa. È questo che unisce. Un'altra ragione che univa i cristiani del III secolo era la preghiera. Non la preghiera intesa come rito religioso, una litania ripetuta all'infinito, ma preghiere specifiche che salivano dal cuore per casi specifici. Ecco la testimonianza di Tertulliano. Ci riuniamo per commentare le sacre scritture, se il corso degli avvenimenti dei tempi presenti ci obblighi a ricercarvi qualcosa che li preannunzi o li spieghi. Alimentiamo in ogni caso la nostra fede con quelle sante parole, rialziamo la speranza, fortifichiamo la fiducia e reinseriamo anche la disciplina, inculcando tali precetti. È là che noi esortiamo, castighiamo e censuriamo in nome di Dio, poiché vi si giudica anche con grande ponderazione, come proprio di gente certa di essere al cospetto di Dio, ed è un terribile pregiudizio per il giudizio futuro se qualcuno ha mancato sì da venire escluso dall'orazione in comune, dalla riunione e da ogni contatto con le cose sante. Dunque i cristiani del III secolo si riunivano anche per commentare le scritture. Facciamo noi così oggi? Mi si dirà che le scritture si commentano durante il culto la domenica, ma non è certamente quello che intendeva Tertulliano. La domenica, sia cattolici sia protestanti, non commentano le scritture, ma, semplicemente, in quel giorno vi è tra loro qualcuno il quale espone ciò che ha capito delle scritture quando tutto va bene. Dove sono allora quegli incontri dove ognuno può parlare per lo Spirito Santo? Dov'è la libertà di comunicare ciò che di recente si è ricevuto da parte di Dio? È questo che alimenta la fede, rialza la speranza, che fortifica la fiducia in Dio e permette di esercitare la disciplina per chi non cammina secondo il volere di Dio. I primi cristiani erano consapevoli della debolezza umana e non disciplinavano certamente chi commettesse un errore. Loro erano fortemente contrari a chi disonorava Dio nel rivolgere preghiere a qualsiasi uomo o donna, a chi ritenesse proprio padrone spirituale qualsiasi persona, all'infuori di Gesù Cristo, a chi considerasse qualsiasi cosa più importante di Dio, cos, come a ciò che si fosse attribuito prerogative divine, pur facendo parte del mondo creato. Nel XXI secolo, queste cose non fanno forse parte della vita di tanti cosiddetti cristiani. Nella chiesa locale alla quale appartieni, ci si rivolge a Dio solo tramite Gesù Cristo? Gesù Cristo e il suo regno hanno la precedenza su tutto, o ti accontenti di presenziare alla riunione della domenica e poi fai quello che ti pare? Attribuisci prerogative divine a statue, crocifissi o altro. Vivi ogni istante della tua vita come se tu fossi al cospetto di Dio, oppure ne senti la presenza e ci pensi soltanto una volta alla settimana, quando odi cantare dei begli inni. Chi aveva un cammino religioso formale, chi si prostrava davanti ad altri uomini, in segno di adorazione o venerazione, veniva escluso dalla comunità, dalla preghiera comune e da ogni partecipazione alle cose del regno di Dio, perché i cristiani del III secolo erano simili a quelli della nascente Chiesa. Mentre, al contrario, oggi, dove tutti venerano statue e uomini, è chi segue solo Cristo a essere escluso dalla comunità. Niente di strano, perché è la maggioranza a stabilire ciò che è giusto o sbagliato. Infatti, dove vi è una maggioranza induista o musulmana, sono i cristiani a essere considerati in errore. Ma se la verità è Gesù Cristo, allora non è la maggioranza ad avere ragione e neppure coloro che si definiscono cristiani, quanto piuttosto coloro che ubbidiscono al volere di Cristo a qualsiasi costo. I primi cristiani e quelli del III secolo pagavano con la loro vita il coraggio di seguire le direttive di Cristo. Dove sono oggi coloro che osano andare controcorrente quando questo è giusto? Che si lasciano schermire per amor della verità? Tertulliano continua la sua disamina con queste parole. Presiedono tali adunanze degli anziani di provate virtù che tale onore, non per denaro ma per la pubblica testimonianza, hanno acquisito, giacché nulla si può avere con denaro delle cose di Dio. Che questa testimonianza possa cambiare le nostre abitudini sbagliate. Che le comunità dei cristiani siano guidate da anziani, cioè da conduttori, chiamati anche presbiteri, è risaputo, ma da doversi accertare, è che queste persone non siano incaricate tali solo per la necessità che qualcuno guidi, perché qualcuno vuole condurre o perché qualcun altro ci è simpatico, ma come dice Tertulliano, chi guida una comunità deve avere provate virtù. Due cose da notare. Innanzitutto, il conduttore deve avere delle virtù e questo crea già una grande selezione. Il conduttore di una chiesa non diventa tale perché è intelligente, perché ha un titolo onorifico, perché è famoso, ma perché l'evidenza, agli occhi di tutta la comunità, delle virtù cristiane da lui manifestate. Così si comportavano i primi cristiani fino al III secolo. Questi principi, oggi, non sono più valevoli? Se è così, bisogna dirlo. Ma poiché la parola di Dio è sempre quella, ci sono nella tua comunità dei conduttori di provate virtù? Dopo aver parlato dei conduttori, Tertulliano passa a esporre un'usanza che ancora oggi vige nelle comunità, la colletta. Ascoltiamolo. E se anche vi è una specie di cassa comune, essa non è formata da versamenti obbligatori in denaro, quasi la religione fosse posta all'asta. Ciascuno versa un modesto obolo, una volta al mese o quando vuole, e solo se lo vuole e se lo può. Nessuno è costretto, ma contribuisce di propria spontanea volontà. Sono questi come dei depositi della pietà. Infatti non vengono poi spesi in banchetti o bevute o sgradite bisbocce, ma per sfamare i poveri e dar loro sepoltura, per soccorrere i giovani e le giovani che non hanno mezzi di famiglia ed anche i servitori divenuti vecchi e così pure i naufraghi. E se qualcuno, solo a cagione della nostra religione, soffre nelle miniere, nelle isole o nelle prigioni, diviene il pupillo della religione che ha abbracciato. Nessun cristiano era costretto a versare del denaro, ma chi lo donava sapeva che tale offerta andava ai poveri che non avevano neppure da mangiare o che non avevano mezzi per una onorata sepoltura. Difficile oggi trovare nel nostro paese persone del genere, come lo è credere che enti sociali o umanitari distribuiscano veramente le offerte raccolte a chi ne ha bisogno. Perciò l'ideale sarebbe ed è offrire personalmente del denaro a chi conosciamo essere nel bisogno. Del resto, l'ordine di Dio è di amare il prossimo tuo, nel quale io ravviso colui che mi è vicino e conosco personalmente. È anche vero, tuttavia, che i primi cristiani aiutavano credenti di altre chiese, per quanto a loro sconosciuti personalmente. Ma, prima di tutto, si trattava di cristiani, poi gli apostoli, ai quali erano consegnate le diverse collette destinate ai poveri, erano per certo dei fedeli amministratori. Dopo aver parlato dell'amore tra i cristiani, Tertulliano continua: ma è proprio questa pratica di amore che ci bolla di infamia presso certuni. Vedi, dicono, come si amano fra loro, mentre essi si detestano fra loro e sono pronti a morire l'un per l'altro, mentre essi sono pronti a scannarsi a vicenda. Quanto poi al fatto che siamo chiamati fratelli, ritengo che ciò che li fa sragionare è perché presso di loro ogni titolo di parentela è sinonimo di affetto non sentito. Noi siamo infatti anche fratelli vostri, per diritto della stessa madre comune, anche se voi siete poco umani, essendo dei cattivi fratelli. Quanto più degnamente, allora, sono chiamati e considerati fratelli coloro che riconoscono un solo Dio quale Padre e si sono abbeverati alla stessa fonte di santità e, usciti dal seno dell'ignoranza, si ritraggono atterriti dinanzi al fulgore della verità. Tertulliano tocca un argomento rimasto valido anche oggi, a 1700 anni di distanza, chi siano i fratelli. In senso lato, dice Tertulliano, siamo tutti fratelli, ma i veri fratelli sono quelli che hanno Dio come padre, cioè coloro che hanno realizzato la nuova nascita da adulti mediante un atto di fede nell'opera sostitutoria e sufficiente di Cristo. Infatti il Vangelo di Giovanni molto chiaramente e in modo comprensibile a chiunque dichiara: Gesù è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto, ma tutti coloro che lo hanno ricevuto, cioè hanno creduto in lui e nella sua opera, alla salvifica, egli ha dato l'autorità o il diritto di diventare figli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, cioè da genitori credenti, né da volontà di carne, cioè mediante le opere buone, né da volontà di uomo, cioè mediante un'autorità religiosa, ma sono nati da Dio, cioè sono stati rigenerati per opera dello Spirito. GV 1.1113. E, poiché vi sono falsi fratelli, una prova inequivocabile di appartenere a Dio è l'amore che si mostra verso coloro che sono nati di nuovo. Persone che prima ti erano indifferenti, ma che ora ami come li ama Dio. E questo fa andare giù di testa l'incredulo, il quale non capisce cosa può unire persone di diversa cultura, età e carattere. Un'altra prova dell'essere un vero figlio di Dio è anche quello di amare la verità, odiare ciò che anche Dio odia e amare ciò che Dio ama. Cosa impossibile per chi non appartiene alla famiglia di Dio e non ha per fratello Gesù. Questa verità è stata valevole per i primi cristiani, per i cristiani del III secolo, e lo è tuttora per quelli del XXI secolo. L'amore, tra i cristiani dei primi secoli, era talmente genuino che Tertulliano ha dovuto aggiungere: «Uniti così con lo spirito e con l'anima, non indugiamo a mettere in comune i nostri beni. Tutto è da noi messo in comune, fuorché le mogli». E, importante comprendere che la vita comunitaria dei primi cristiani non fosse stabilita per cercare un accordo, non covasse l'intento di creare un movimento ecumenico. Essi non si trovavano, perché altrimenti non avrebbero saputo dove andare. Al contrario, i loro incontri erano il risultato della realizzazione di un principio spirituale, uniti nello spirito. Per forza di cose, erano uniti anche nelle cose materiali. Un discorso questo, poco compreso, da chi ha l'animo alle cose terrene. Ma, per chi cerca l'eternità, per chi è indirizzato verso le cose durature e eterne, i beni terreni hanno un valore molto transitorio. Il vero cristiano è cosciente della transitorietà e della limitazione peculiari a tutto quello che si vede, e per questo egli cerca i valori eterni che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Questo è il motivo per cui i veri cristiani mettono in comune con altri cristiani le loro ricchezze e, appena è possibile, usano i beni terreni per aiutare gli increduli affinché anch'essi siano incoraggiati a volgersi verso ciò che è immortale. Ancora per questo, come dice Tertulliano, i veri cristiani hanno un atteggiamento santo e di castità riguardo alla sessualità, sapendo che Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. I fornicatori sono tutti coloro che usano illegalmente ogni espressione sessuale, mentre gli adulteri sono coloro che non sono fedeli al partner, con il quale si sono uniti per tutta la vita. Sembra che, oggi, tra la fine del XX secolo e l'inizio del XXI, gli uomini si sentano padroni assoluti della loro sessualità. Molti credenti stanno attenti di non cadere nelle varie illecite libertà che si prendono gli altri uomini, ma non dimostrano tanto interesse per ciò che riguarda la sessualità. Come disse un credente, dalla cintura in su sono cristiano, dalla cintura in giù sono pagano. E molto difficile non ubbidire agli impulsi sessuali, come forse è sempre stato, ma la mentalità di oggi e la facilità con la quale si può ottenere tutto e di più non aiutano certamente a esercitare l'autocontrollo sul proprio corpo. Chi non riesce a trattenersi da un cioccolatino, da un gelato, da un pasto consumato con modestia, non può certamente controllare il minimo impulso sessuale. Una cosa è un atto di debolezza, quale fu per il re Davide quando commise adulterio. Altra cosa, quando non si è in grado di controllarsi. Saresti in grado di controllarti se una donna, a bruciapelo, ti si proponesse per una serata intima? Saresti in grado di rifiutare un uomo che ti proponesse una relazione amorosa come alternativa decisamente migliore di quella che stai vivendo? Difficile dirsi, ma potrai saper dare una risposta molto vicino alla realtà se ti sai normalmente controllare nel parlare e nell'agire. Infine Tertulliano prosegue così, sull'argomento delle riunioni dei cristiani del III secolo. Se la ragione dei nostri conviti è onesta, giudicate da essa quale sia la disciplina del loro svolgimento. Poiché hanno origine da un dovere religioso, nessuna bassezza, nessuna immodestia. vi è ammessa. Non ci si adagia prima di aver pregustato una preghiera a Dio. Si mangia quanto la fame richiede. Si beve quanto è permesso dalla castigatezza. Ci si satolla come chi si deve ricordare che anche la notte è destinata all'adorazione di Dio. Si parla come chi sappia che Dio lo ascolta. Dopo lavate le mani e accesi i lumi, ognuno è invitato davanti a tutti a levare un canto in onore di Dio, come può, tratto dalle sacre scritture o dal proprio spirito. Allora appare come si sia comportato nel bere. La preghiera parimenti chiude il convito. Poi ciascuno se ne va, non per formare delle bande di assassini o delle torme di vagabondi e neppure in prese lascive, ma con la stessa preoccupazione della modestia e della pudicizia, con la stessa preoccupazione di chi ha preso a tavola non tanto un pasto quanto un insegnamento. Ma quando mai ci riunimmo per il danno di qualcuno? Noi siamo gli stessi, riuniti come separati, tali nell'insieme quali da soli. A nessuno nuociamo, non contristiamo nessuno. Quando si riuniscono dei probi, dei buoni, dei casti, non è una fazione, ma un'assemblea. Credo proprio che nulla sia da aggiungere a tali parole, se non per rimarcare l'evidente consapevolezza di questi cristiani, di trovarsi sempre di fronte a Dio, di compiere ogni cosa, in parole e in opere consapevoli, di dover, un giorno, rendere conto non agli uomini, ma a Dio stesso. Questa consapevolezza si trova costantemente presente in te. Mangi, bevi, parli, fai sesso, guidi la macchina cosciente che Dio ti sta guardando e giudicando. Hai nella vita lo stesso atteggiamento, come quando sei alla presenza di Dio e soprattutto quando ti trovi in una riunione con i tuoi fratelli per celebrare l'Eucaristia. Quello spirito di adorazione che ti anima quando sei alla presenza di Dio è lo stesso che ti accompagna nel corso della tua vita, tanto nei momenti belli come in quelli brutti. Sei lo stesso quando sei da solo, così come in compagnia. O, assieme agli altri, fai vedere un aspetto religioso, non corrispondente a ciò che hai nel cuore? Sono domande, forse imbarazzanti, ma che servono per aiutarci a essere come i veri cristiani, che ci hanno preceduto nei secoli. Quando noi cristiani ci riuniamo, dobbiamo assolutamente essere quello che siamo ogni giorno. Diversamente, disonoriamo il nome di Dio. Se studiamo come si comportavano i primi cristiani, non è per curiosità, ma per imitarne il bene. Due scritti del XX secolo fanno il caso nostro. Il primo è di un famoso scrittore, Martin Lloyd-Jones, nel suo libro Depressione spirituale. Viviamo in un'epoca di grandi incertezze e una delle lezioni più valide da imparare è quella di rimanere indipendenti dalle circostanze. Queste non dovrebbero in nessun modo modificare la nostra pace interiore. L'organizzazione attuale della vita rende questo traguardo quasi irrealizzabile. Persino nella vita normale dipendiamo totalmente da quello che fanno gli altri, e questo rende assai difficile vivere a modo nostro. Accendiamo la radio o la televisione e poco per volta ne diventiamo schiavi. Lo stesso si può dire dei giornali, del cinema, dei divertimenti. Quasi senza accorgercene si crea un'dipendenza. Ci è persino chi teme uno sciopero della televisione perché non saprebbe che cosa fare. Questo stato di cose non risparmia purtroppo i credenti. Uno dei più grandi pericoli nella sfera spirituale consiste nel diventare dipendenti dalle riunioni sempre più numerose. Si assiste oggi ad una sorta di mania di riunioni e molti credenti sembrano affetti da riunionite. Corrono continuamente da una riunione speciale a un'altra più speciale ancora, da una seduta di comitato a un'assemblea. D'altra parte, i giovani abituati all'entusiasmo e al calore degli incontri giovanili cristiani perdono la loro vitalità spirituale quando il lavoro o un trasloco li obbligano a separarsene. Non fraintendetemi. Non voglio in nessun modo incoraggiare il disinteresse per le occasioni di unirci che ci vengono offerte. Non sostengo affatto che l'unica riunione debba essere quella del culto domenicale. Ma dobbiamo vegliare per non diventare così dipendenti dalle riunioni, al punto di non saper più che fare di noi stessi quando la malattia o altri motivi ci inchiodano al letto o ci obbligano a stare in casa. La vera pietà dell'uomo si rivela nella solitudine. E è più facile salire sul pulpito che passare le ore nella solitudine della separazione. Bisogna riconoscere che si sente più facilmente la presenza del Signore quando si è insieme ad altri credenti che non da soli. Dobbiamo riflettere seriamente su questa analisi critica, perché se non ci mettiamo in discussione, non ci sarà per noi nessun miglioramento. Come disse qualcuno, ci è una cosa che Dio non può fare: guarire chi è sano. Così, seguendo questo principio, possiamo affermare: ci è una cosa che Dio non può fare. Aiutarti a migliorare se non sei convinto di dover migliorare. Sembra strano, ma la mancanza di consapevolezza di essere dei peccatori dimora, spesse volte, in chi ha già ricevuto il perdono dei peccati, cioè in coloro che si definiscono cristiani. Questo aspetto va chiarito. Non sto dicendo che i credenti non confessino di essere peccatori, di essere mancanti. Non sto dichiarando che i credenti non confessino i loro peccati, ma semplicemente che non credono a quello che dicono. Una conclusione forse audace, ma se le cose fossero diverse, non la nostra reputazione di noi stessi, non sarebbe sempre così alta, non ci si offenderebbe così facilmente. Quando qualcuno esprime un'opinione negativa su di noi, è saputo e risaputo che quasi la totalità delle divisioni nelle chiese avvengano non per motivi dottrinali, ma per ragioni morali, per offese recenti o di vecchia data. Perché? Perché noi pensiamo di non essere quello che invece gli altri vedono. Non a caso l'Apostolo Paolo ha scritto: dico a ciascuno che si trovi fra voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. RM 12.3. Com'è difficile riconoscere non solo i propri pregi, ma anche i difetti? Dunque, se come leggiamo nella Bibbia i primi cristiani erano disordinati nelle loro riunioni, noi credenti del XXI secolo, dobbiamo guardarci da un altro errore. Organizzare incontri tra credenti, come passatempi o momenti di ritrovo. L'affermazione «la vera pietà dell'uomo si rivela nella solitudine» ha del profondo, perché quando si è soli, si è maggiormente se stessi. Non dobbiamo rendere conto a nessun altro uomo, non dobbiamo fare bella figura, non dobbiamo prevalere su nessuno, perciò ci sentiamo liberi di essere quello che davvero siamo. Eppure, quando si è soli si deve meno, come sempre, meno rendere conto a Dio. Le riunioni alle quali assistiamo o partecipiamo hanno la capacità di nascondere i veri motivi del nostro cuore. In quelle riunioni ringraziamo con ardore Dio per tutti i beni ricevuti, poi però nella quotidianità ci lamentiamo in ogni circostanza perché non abbiamo ciò che vorremmo, perché le cose non vanno come ci sembra bene. Nelle riunioni dei cristiani si ringrazia Dio per il perdono dei peccati, si confessa di perdonare il prossimo come Dio ci ha perdonati, e poi si nutrono nel cuore amarezze e sogni di vendetta per chi riteniamo, a ragione o non, ci abbia fatto del male. Se poi non è vendetta, è comunque inimicizia. Le riunioni dei cristiani hanno la capacità di nascondere il nostro rancore e tutti quei problemi non risolti che ci avvelenano l'esistenza. Frequentiamo dunque le riunioni, ma prima esaminiamo se, per noi, esse non rappresentino momenti di svago per evitare di affrontare la dura realtà. Quando Dio disse «voglio misericordia e non sacrificio», voleva dire proprio questo: meglio che il perdono sia l'anima della tua esistenza, è meglio operare per ottenere una difficile riconciliazione che essere sempre presenti al culto. Chi lo ha capito? Un altro breve scritto, del XX secolo, in merito a come si comportano i cristiani nelle loro riunioni, appartiene a Juan Carlos Ortiz, nel suo libro «Vivere con Gesù oggi». Le riunioni di chiesa possono essere un aiuto per fortificare il nostro uomo interiore, ma possono diventare anche il peggiore ostacolo per la nostra crescita. Dipende se al centro della nostra vita spirituale stanno le riunioni o sta Cristo. Qualcuno potrebbe rispondermi, ma noi siamo cristocentrici. Quando ascolto i discorsi che fanno certi credenti mi domando se veramente sono cristocentrici. Spesso mi capita di udire frasi che mi lasciano perplesso. Per esempio sento dire, soprattutto fra i carismatici e i pentecostali, «Fratelli, dal momento che sono entrato in questo luogo, ho sentito la presenza del Signore. E io chiedo loro, e dov'era il Signore prima che tu entrassi in questo luogo?» In realtà, se non abbiamo portato il Signore con noi, egli non è in nessun luogo. Il Signore non abita nei locali di culto, dimora nel cuore del credente. Come potete quindi affermare? Appena partecipo alla riunione, sento la presenza del Signore. Sembra una bella frase, ma in realtà è una eresia. Non confondete le emozioni con la presenza di Dio. Vi sono persone alle quali piace andare alle riunioni, in continuazione, perché spesso hanno dei problemi emotivi. Piangono quando il predicatore pronuncia frasi toccanti o quando canta. Se avete problemi emotivi potete guardarvi un film commovente, ma il Signore ci ha collocati in questo mondo per salvare l'umanità, per estendere il suo regno, non per procurarci dei trattenimenti religiosi o per eccitare le nostre emozioni nelle riunioni di chiesa. Anche questo credente ha messo il dito nella piaga. I cristiani della nascente chiesa avevano problemi, anche dottrinali, perché il messaggio nuovo del Vangelo di Cristo, prettamente ebraico, doveva essere tradotto e reso comprensibile a una mentalità formatasi sulla cultura greca. Noi, oggi, non abbiamo questioni simili, ma ne abbiamo altre, molto più sottili e infide. Dobbiamo guardarci dalla religiosità. Per religiosità si intende che abbiamo sostituito il rapporto personale con Cristo con delle regole, abbiamo sostituito la vera gioia cristiana con quella prodotta dalla religiosità. C'è da pensarci. Questa ricerca relativa all'etica dei cristiani nostri predecessori durante le loro riunioni è funzionale a capire meglio quali fossero i loro pregi e dei loro errori. Questi dovrebbero e devono essere, in conclusione, una ragione in più per vivere totalmente per Cristo, devono costituire un motivo valido per ritrovarsi con gioia, ma è soprattutto per non vedere la Chiesa come un'infermeria, nella quale troviamo solo la cura per i nostri malanni e disagi, poiché è scritto chi annaffia sarà annaffiato, PR 11.25, consideriamo la Chiesa e le riunioni dei cristiani, luoghi nei quali dare ciò che si è ricevuto da Dio. Ancora una volta Gesù ha detto il vero, meglio dare che ricevere. Settembre 2012, Ellero.